chi sono i pagani? Questa domanda si propone con violenza, perché spesso chi ascolta l'Evangelo e comprende che per essere salvato deve porre fede in Gesù, cerca una scappatoia, chiedendo come faranno i pagani ad essere salvati se non hanno mai udito l'Evangelo. Una cultura che è sempre stata di moda ha considerato i pagani come gente incivile, rozza, arretrata, e soprattutto persone che non hanno mai udito l'Evangelo. Nella parola di Dio, il termine pagano si trova pochissime volte ed è riferito a colui che non è israelita, a colui che è estraneo e lontano dal Dio di Israele e che non vale niente. Abbiamo anche un altro termine per definire coloro che non appartengono al popolo di Dio e che nelle traduzioni italiane è reso con gentili. I gentili, pur essendo non giudei, sono propriamente dei greci. Così, il termine gentile e pagano sono molto simili, facendo capo ad una unica idea. Non fanno parte del popolo di Dio. E poiché il popolo di Dio prima della venuta di Cristo erano gli israeliti perché circoncisi, ora, come dice l'Apostolo Paolo riferendosi ai cristiani composti di giudei e gentili, i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Filippesi 3:3. Oggi perciò i termini gentile e pagano dobbiamo attribuirli non tanto a chi appartiene ad un popolo, ma piuttosto a chi ha un comportamento non conforme alla morale del Vangelo. E di questi ce ne sono molti anche se affermano di essere credenti in Cristo. Così, riflettere su chi sia un pagano o gentile può diventare per alcuni molto imbarazzante, perché andare a indagare nella soffitta di un cuore può facilmente condurre a trovarvi qualcosa che non va. Forse un folto strato di polvere ha coperto abitudini sbagliate ormai assodate, o ci porta alla scoperta di verità che erano messe in un cantuccio e che si erano completamente dimenticate. Questo è il compito del messaggio del Vangelo, cioè quello di mettere in luce le cose nascoste, di illuminare chi è nelle tenebre. Se riteniamo che ciò che è scritto nella parola di Dio è indirizzato prima di tutto a noi, allora qualsiasi riflessione che si faccia in merito ci deve coinvolgere. Uno studio in merito a chi sono i pagani viene valorizzato dal nostro Signore Gesù Cristo, il quale, nel dare i suoi insegnamenti come vivere da cristiani, fece riferimento proprio ai pagani. Ecco cosa leggiamo nel suo sermone sul monte. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 5, 43-47. Questo solo brano dell'insegnamento di Gesù, se preso sul serio e vissuto, potrebbe cambiare il mondo intero in positivo. L'ordine di Gesù è rivoluzionario. Non solo bisogna non odiare i nemici, ma occorre avere un amore positivo nei loro confronti. Occorre avere un amore che non sia naturale, come quello di chi non conosce Dio, cioè fare del bene a chi ci fa del bene, o restituire i favori che si ricevono. Tutto questo fa parte di quell'amore innato che Dio ha infuso nel cuore dell'uomo e in assenza del quale non potrebbe esserci convivenza. Ciò che Gesù ha ordinato è andare oltre l'amore originario e perciò esprimere questo amore congenito anche nei confronti di coloro che ci sono nemici. Perché agire solo secondo natura è una caratteristica dei pagani, cioè di tutti. Così, il credente che si comporta secondo le inclinazioni naturali, che perciò ama chi lo ama, si comporta come un pagano. Nulla di straordinario, dunque. Poiché questo insegnamento è vecchio di 2000 anni, non trasmette novità e per questo non fa più effetto. Quando un coniuge rende al partner ciò che riceve, non si comporta forse come un pagano? Quando un fratello in fede evita un altro fratello, non è forse questo il comportamento di un pagano? Quando siamo interessati soli a coloro che condividono il nostro punto di vista, non siamo forse come i pagani? Se preghiamo solo per chi ci fa del bene, cosa abbiamo di diverso da coloro che non conoscono Dio? Fare del bene a chi ci odia, pregare per chi ci maltratta, è questione di fede e non di sentimento. Agire oltre le nostre inclinazioni naturali ci rende simili a Dio, il quale fa del bene a tutti, anche a coloro che lo hanno crocifisso. L'essere perfetti come il Padre Celeste significa essere completi, cioè essere in grado di amare sia gli amici che i nemici. La preghiera è forse il momento nel quale i credenti incorrono nella forma pagana più comune. Ecco cosa Gesù disse in merito. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Matteo 6:6-8. La preghiera è l'espressione tipica di ogni religioso e perciò non manca. Anche in chi ha posto fede in Gesù, Gesù avverte i suoi di non essere degli ipocriti. Molto probabilmente nessuno di noi ritiene per sé questo avvertimento, e su questo nessuno può dire nulla. Rimane invece aperta la seconda problematica, e cioè quella di non essere ripetitivi e usare un gran numero di parole nel pregare. Mi chiedo se il cattolicesimo romano ritiene questo ordine per sé, o lo vede rivolto solo agli altri, quando nelle funzioni vengono ripetuti i rosari o il Padre nostro. Non sono forse inutili ripetizioni di parole, quando si invita a recitare certe preghiere una volta al giorno? Non si incita le persone a comportarsi da pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole? Com'è possibile professare di credere al Vangelo, quando lo si sconfessa apertamente? Chi afferma di credere in Cristo deve anche credere di non dover formulare preghiere precostituite, quando anche fossero bibliche come il Padre nostro. Dobbiamo ricordare del continuo che non è sufficiente usare la parola di Dio, ma che è fondamentale osservare il modo in cui la si usa. Anche il diavolo citò la parola di Dio, ma per indurre Gesù a comportarsi malamente. E anche i falsi apostoli usano la parola di Dio, ma per sostenere le loro menzogne. L'apostolo Paolo disse che la legge è buona, se uno la usa legittimamente. 1 Timoteo 1:8. Non è solo la legge in sé ad essere lecita, ma anche il suo uso. Così è della preghiera. Non è sufficiente pregare, non è sufficiente avere un atteggiamento positivo, dobbiamo controllarne la forma. Preghiere ripetitive e colmate di parole, nell'unico intento di renderle più lunghe, ci fanno simili ai pagani. Vi è un altro comportamento che rende i credenti come pagani, ma è talmente comune che ormai nessuno ci fa più caso. Gesù disse in merito: io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Non siate dunque in ansietà, dicendo, che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo. Poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose, il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6:31-34. Secondo Gesù, il pagano non è condizionato dalla terra dove vive, dal colore della pelle o dalla religione, ma dalla condotta. Il pagano è colui che ha una vita religiosa e prega, è colui che vive secondo una morale, cioè fa del bene a chi gli fa del bene. ha una vita equilibrata lavorando, interessandosi della famiglia, e tutto questo con il massimo impegno. Nessuno ha nulla da dire, sulla sua tomba sarà scritto che è stato un marito esemplare e dedito tutto alla famiglia, di lui si ricorderà che è stato un grande lavoratore, eppure davanti a Dio una simile persona avrà fallito lo scopo per cui è stato creato, cercare e servire Dio. In definitiva egli è vissuto come un pagano, lontano da Dio e dal piano di Dio. E come lui sono tutti quei credenti che danno precedenza alle cose terrene anziché a quelle celesti, sono quelli che vivono una vita comunitaria, come ospiti, anziché sentirsi impegnati per l'avanzamento del regno di Dio. Nel regno di Dio ci è bisogno di conduttori, di diaconi, del ministero di esortazione, di chi ospita, di chi compie opere di carità, di chi incoraggia, di chi dona con liberalità, chi visita gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni. Occorrono evangelisti, profeti, dottori. Un impegno in un qualsiasi settore nel campo di Dio ci evita una vita religiosa formale, ci impedisce di essere estranei e di vivere ai margini nella casa di Dio. Chi sono dunque i pagani? Io sono un pagano quando Gesù Cristo non ha il primo posto nella mia vita, quando vivo condotto dalla mia natura e non dallo Spirito Santo, quando il mio amore è simile a quello della maggioranza, quando non do la precedenza al regno di Dio. Il paganesimo dunque è alle porte, e può essere anche nella vita di un figlio di Dio. Gesù ci ha avvertiti. Tocca a me e a te riflettere e scegliere di conseguenza. Gennaio 2005. Ellero,